C'è chi, come il filologo svizzero Fritz Ernst e poi il nostro Migliorini, ha già scritto una storia della nostalgia. Nel 1688 tal Johannes Hofer, all'Università di Basilea, presenta una sua tesi di laurea in medicina dedicata al dolore provato dai soldati svizzeri per la patria lontana. Dolore che in tedesco si diceva Heimweh. In cerca di una voce dotta per designare questo concetto, Hofer provò a tradurla in greco e saltò fuori, fra le altre possibilità, saltò fuori anche nostalgia, dove nostos, il ritorno, e l'algos, il dolore, si fondono in una parola sola. Che allora, come sciatalgia o mialgia, nasce nel lessico specialistico della medicina. Lì ci sta, lì dentro ci sta praticamente un paio di secoli, fino a quando nel 1874 Carducci non la sdoganò, come si dice oggi, in un poemetto che alla nostalgia fu per l'appunto intitolato. Da lì è tutto un successo espansionistico. Non più medicalizzato, il termine ha finito con il designare ogni sofferenza causata dalla consapevolezza che prima le cose andavano meglio di quanto non vadano ora. È così che il nostalgico, ancora oggi fra le persone più anziane, è quello che vedrebbe di buon occhio il ritorno alla famigerata epoca in cui i treni arrivavano in orario. Leggevo in questi giorni, con il consueto ritardo di qualche anno sul lettore modello funzionale all'industria culturale, leggevo la prima sorsata di birra di Philippe Delerme. È uscito nel 98. La prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita, per essere più precisi. Si tratta di limatissimi capitoletti dalla sintassi furbesca, ricca di impliciti, dedicati ad una serie di argomenti che nasconde una serie di altrettanti godimenti di attualità. Il pacchetto delle paste della domenica, come lo si porta in mano? Aiutare chi sta in cucina a sgranare i piselli, bersi un buon bicchiere di porto, mangiarsi un croissant per strada al mattino presto, andar per more, il Tour de France, la domenica sera, via gli amici, si rimane soli, ci si mette nella vasca da bagno, ci si fa un panino con gli avanzi, ci si scola al fondo della bottiglia, si accende la televisione, quel che c'è, oppure mettersi il maglione per l'arrivo dell'autunno, leggere il giornale con la prima colazione e notare che il giornale è già pacificante di per sé. Beato lui, o meglio, beato lui se ci crede davvero, se ne è profondamente convinto. Riesce difficile, a me, invece, non scorgere, dietro questa sistematica volontà di categorizzare come piacere della vita questo tipo di repertorio esistenziale, non scorgervi una forma di deresponsabilizzazione sociale. Nel momento in cui le si fa, queste cose per lo più non vengono poi associate a piacere alcuno, rientrano nell'ovvio della routine, costituiscono quel tempo morto che di solito viene asportato dal diario. Le si riassapora freddo e, individuandovi un che di comune nel mero fatto di averle vissute, retrospettivamente le si ricategorizza in piacere. Un piacere passato, sempre e comunque, che, in quanto irreversibilmente privo di ritorno, si pasce di nostalgia. E dell'inazione conseguente alla nostalgia. Tutto andava meglio prima, perfino la seconda sorsata di birra è ben peggiore di quella precedente, e dunque il presente ci accolga nella nostra appagata rassegnazione. La forza pacificante del giornale nel momento della prima colazione sta al massimo nella carta. come il giornale diventa informazione, come diventa deformazione del mondo, di questo mondo così come lo conosciamo senza gli occhiali della nostalgia, il senso di pacificazione svanisce e monta la costernazione e monta la rabbia. Dietro l'industria della nostalgia manovrano gli zelatori del miglior mondo possibile e del tutto va ben, madama la marchesa. Servi bugiardi. Questa prima sorsata di birra di Delerme è una sorta di miti d'oggi in edizione ideologicamente economica. Qualcuno ricorderà il vecchio miti d'oggi che, inaugurando un genere, Roland Barthes pubblicò nel 57. Anche lì, ecco, a testimonianza della parentela, anche lì fra i tanti capitoletti ce n'era uno dedicato al Tour de France. Tuttavia, Delerme, indagando sui suoi oggetti con autocompiaciuta bonomia, mai ne scalfisce la superficie e mai sconfina dal letterario. Mentre Barthes scava fin con cinismo, magari altrettanto compiaciuto, ma tenta perlomeno di pervenire alla radice dei perché decisivi. Perché quella cosa ha provocato piacere? E da dove proviene questo piacere? Perché mutando certe condizioni non lo provoca più? Quanto c'entra la cosa in sé per sé e quanto c'entra invece l'operare mentale con cui investo questa cosa? Quanto c'entra l'insieme dei processi sociali di valorizzazione con questo operare mentale? In Barthes, con tutti i limiti dell'intellettuale che rimane tale e che non rinuncia alle prerogative disciplinari di cui la stessa società borghese cui si contrappone l'accredita, in Barthes c'è urgenza morale. C'è un impegno preso nel momento in cui l'analisi diventa denuncia e non c'è nostalgia. Fra i tanti piaceri della vita, secondo Delerme, c'è anche la lettura di un romanzo di Agatha Christie. Uno qualsiasi, magari neppure della Christie, perché è un modo di dire, o in altre parole, una pura categoria dello spirito. Come esempio è perfetto per quel che voglio sostenere. Faccio un caso. Nel 1931 un detection club che può annoverare i migliori scrittori di libri gialli dell'epoca, decide di varare una grandiosa opera collettiva. Ne viene fuori quel che Mondadori pubblicò nell'83 come L'ammiraglio alla deriva. La collettività dell'opera consisteva, in tutta la sua originalità, consisteva nel rispetto delle seguenti regole. La prima, che ogni scrittore partecipante era impegnato a scrivere un capitolo dando seguito al caso così come è stato ideato da chi l'ha preceduto, ma senza sapere alcunché degli esiti che chi l'ha preceduto aveva in mente. Secondo, ciascun autore tuttavia doveva avere in mente allorché scriveva la soluzione finale del caso, soluzione che doveva essere consegnata insieme al capitolo e quindi tenuta segreta. Terzo, ciascuno, infine, si impegnava ad affrontare le difficoltà lasciate insolute da chi l'aveva preceduto. Insomma, se X diceva che Y aveva visto Z, X2 non poteva dire che quello si era sbagliato o almeno, perlomeno doveva tirar fuori una buona giustificazione per un eventuale errore. Va da sé che L'ammiraglio alla deriva è una delle maggiori nefandezze letterarie che siano mai state compiute. E nonostante che anche la sullodata Agatha Christie partecipasse tristemente della collettività in questione, la narrazione risulta priva di senso dalla prima all'ultima pagina. Date le premesse, l'assassino avrebbe potuto essere anche mia nonna, senza che nessuno avrebbe potuto averci a che ridire. Non stava in piedi, perché non stava in piedi la teoria che ne era alla base. Un racconto che voglia risultare credibile deve rispettare la mappa dei rapporti logico-consecutivi condivisi dai lettori una mappa passibile di quelle modificazioni che il racconto svolgendosi impone. Ogni modificazione, per essere accolta, deve essere coerente con le precedenti e con la mappa nel suo complesso. Se questa coerenza non c'è di principio, non c'è di principio perché le logiche che presiedono alle modificazioni sono più di una, tante quanti sono gli autori coinvolti nel progetto, beh, è ben difficile che il racconto possa risultare credibile. Per un racconto surrealista può forse anche andare, come può andar bene tutto, ma è ben difficile che vada bene una soluzione del genere per un romanzo giallo. Eppure Agatha Christie, come categoria generale dello spirito, per Delerme è un piacere della vita. Fatto è che a questa categoria dello spirito viene concesso uno statuto speciale. Si fa conto sul tacito accordo di non leggere Agatha Christie come le cronache delle partite di calcio o come un trattato di biologia. Si richiede un'indulgenza per il genere cui questa narrazione appartiene. Ma non ci si interroga sulla funzione sociale di questo genere e sui valori che storicamente veicola. Farà anche piacere, può anche darsi, ma non sarebbe il primo caso di qualcosa che provoca piacere e al contempo rende inermi e vagamente ebeti. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.